grigia. Allora, il povero Alberto da Varese aspetta praticamente dall'altra parte della trasmissione, però lui stoico, temerario, paziente, è lì. Siccome non ho voglia di essere visitato da Montezuma e dai suoi amici. Claudio, vada, veloce. Sì, buongiorno. Allora, sono contento di aver superato la barriera rosa. La vostra radio è formidabile, si riesce a parlare. Flavio, resista. Forza. Sì, allora... sia uomo. Abbiamo... e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Tempo, comunque vadano le cose, lui basta e se ne frega se qualcuno è in ritardo, puoi chiamarlo bastardo ma intanto è già andato e fino adesso niente l'ho mai fermato e tutto più forte lo hai misurato con i tuoi orologi di ogni marca e modello, ma tanto tempo resta sempre lui quello, l'unica cosa che c'è data di fare è non ho tempo, non c'è tempo, non è più tempo, ho perso tempo, è passato il tempo, avessi il tempo, tutte frasi che raccontano sensazioni che prima o poi tutti nella vita proviamo, ma non si tratta solo di questo, c'è dell'altro. La parola tempo, il concetto stesso di tempo si prestano a tante declinazioni e altrettante riflessioni. Possiamo considerare il tempo come una risorsa da utilizzare, gestire, sfruttare, impiegare, far rendere, oppure considerare il tempo come una risorsa che inesorabilmente si consuma, indipendentemente da come la utilizziamo e che non abbiamo alcuna possibilità di rimpiazzare. Possiamo ancora pensare al tempo come energia, tempo come arricchimento, esperienza, conoscenza, tempo per sé, liberato magari dagli impegni, ma anche tempo di rispetto, di riflessione, di attesa. Queste sono parole davvero difficili in una società che va di fretta. Il tempo è diventato un lusso, è il vero lusso, perché se è vero che il tempo è denaro, il tempo è vita. Buongiorno a Nicoletta Pollamatteo, benvenuta a Cuore Denari. Grazie, buongiorno a Nicoletta e buongiorno agli ascoltatori. A proposito di tempo, Nicoletta, nella vostra redazione è già partito il conto alla rovescia, ormai ci siamo. How to Spend It, il nuovo mensile che uscirà con il Sole 24 Ore, pronto, esce domani. Esce domani, è una grande avventura, una partnership del Sole 24 Ore con il Financial Times per lanciare un giornale di lifestyle, di lusso, di piaceri del vivere. How to Spend It è un marchio storico che nel Regno Unito celebra i suoi 20 anni quest'anno. E adesso il Sole lancia invece un'edizione tutta italiana, ideata e realizzata qui. Era tempo, cioè, ma che legame c'è tra How to Spend It e il tempo? Perché parlare di tempo o un giornale che parla di lussi, di piacere, parla di tempo? Noi abbiamo proprio impostato tutta la campagna di lancio sul tempo, non soltanto con un countdown come tu ricordavi, ma proprio dicendo il tempo è il vero lusso, perché è quello che più ci manca, credo, in questo momento, tutti noi, la classica frase vorrei una giornata di 25 ore, ma magari di 26, magari di 27, 48. 48, ecco, credo tutti una volta nella vita la pensiamo, e poi il tempo ti dà anche la dimensione di poter desiderare il bello, di poterti godere il bello e il lusso, quindi io credo che il vero lusso sia il tempo in questo senso, dobbiamo avere tempo per assaporare le cose, per vederle, per assaggiare qualcosa di buono, per vedere un'opera d'arte. Per andare domani in edicola. A comprare How to Spend It insieme al Sole 24 Ore. E quali sono i temi del giornale? Dacci qualche anticipazione. Guarda, i temi sono tutto quello che attiene alla sfera del piacere, del leisure, come dicono gli inglesi. Quindi moda, bellezza, viaggi, begli oggetti per la casa, arte, collezionismo. Il giornale non ha sezioni rigide, gli argomenti sono in qualche modo circolari, come nella nostra vita, certo, no? Di tutti i giorni. Noi possiamo magari essere seduti a mangiare una cosa meravigliosa all'aperto in una piazza italiana meravigliosa con davanti un monumento, con addosso l'abito che ci piace di più e con cui ci sentiamo belle, o insomma ci sentiamo a nostro posto, con un'amica con cui magari chiacchieriamo delle nostre vacanze e di un viaggio meraviglioso che abbiamo già fatto o vogliamo fare. E che inavvertitamente ci rovescia la tazzina di caffè sull'abito bellissimo e manda tutto, no? Per aria. Senti, grande formato, belle foto, articoli lunghi, bellissime interviste, quanto tempo ci vuole per leggerlo? Io vorrei, spererei che i lettori si prendessero tutto il tempo per leggerlo. L'idea di questo giornale è proprio un giornale comodo, un giornale confortevole in cui ti senti accolto, in cui ti puoi accomodare. Lo leggi un po' oggi, poi magari lo riprendi qualche giorno dopo. L'idea è non avere fretta, un momento di rallentamento proprio. Nicoletta, how to spend it? Non è un nome un po' difficile? Senti, io mi chiamo Nicoletta Polla Mattiot e mi hanno affidato la direzione di How to Spend It, quindi sulle cose difficili me ne intendo. How to Spend It è un marchio storico importante, quindi abbiamo scelto e deciso di mantenere il nome. Io credo che la cosa interessante del nome è che contiene quell'how, che significa come, e a questo io credo molto. Credo che sia la domanda cruciale: come fare, come ottenere, come cambiare. Noi troppo spesso ci chiediamo perché a me, perché è successo questo. C'è un po' di vittimismo, no, in questo, magari un po' di dietrologia, perché invece di guardarsi indietro, di chiedersi perché, credo che la dimensione del come dia la dimensione del fare, l'ottimismo del fare. Come cambiare, come se c'è crisi, se sono di cattivo umore, qualunque sia insomma il problema, la domanda del come pone l'accento sull'how to do, come faccio a risolverlo, ed è questa la caratteristica del giornale. E io approfitto dell'occasione per chiedere allora ai nostri ascoltatori non il come ma cosa vorrebbero leggere in questo nuovo giornale che in edicola, ricordiamo, domani venerdì 12, dal nome un po' difficile ma che si fa, no? Si impara in poco tempo. How to spend it. Senti, una volta chiuso il giornale, cosa ti piacerebbe pensassero le persone che noi invitiamo già a suggerirci magari qualche tema che vorrebbero vedere trattato magari nel prossimo numero? Che dici? A me piacerebbe che lo chiudessero e pensassero: ma com'è già finito? Ne vorrei di più. Senti, se tu avessi un giorno in più di tempo, ormai il giornale è chiuso, ma che cosa avresti aggiunto? Un servizio fotografico, un'intervista, una sezione dedicata alla poesia? Senti, mi viene da dire che in realtà la vera domanda è che cosa avrei tolto, non che cosa avrei aggiunto, perché proprio perché questo è un giornale che si fonda sul rispetto anche del tempo del lettore, sulla valorizzazione del tempo, beh, allora è molto importante anche il criterio selettivo. Alvar González Palacio, che è una delle firme di questo giornale, ha scritto una cosa bellissima raccontando il piacere di costruire la propria casa, no? Una casa che è un po' per ciascuno di noi il nostro capolavoro, perché ci rispecchia. Lui dice: per costruire una casa che ci rispecchi davvero c'è bisogno di grande passione, di grande amore, ma di altrettanta crudeltà, perché bisogna sempre scegliere fra cosa tenere e cosa invece non tenere, cosa far entrare in questa casa e dolorosamente anche di che cosa privarsi. Un giornale purtroppo e per fortuna è fatto di scelte, e quindi il vero lusso è potersi permettere delle scelte molto precise che lo rappresentano e dove inevitabilmente molte cose non ci sono. E noi di scelte continuiamo a parlarne. Come scegliamo di impiegare il nostro tempo, o come riusciamo, e quindi scegliendo, a svuotare il nostro tempo? 800 24 00 24. Per quello che vale, non è mai troppo tardi, o nel mio caso troppo presto per essere quello che vuoi essere. C'è limite di tempo, comincia quando vuoi. Puoi cambiare o rimanere come sei. Non esiste una regola in questo. Possiamo vivere ogni cosa al meglio o al peggio. Spero che tu viva tutto al meglio. Il tempo è un lusso, è veramente un bene prezioso e poi, come si suol dire, siamo a cuore denari, il tempo è denaro. È una frase fatta però che calza pennello quando facciamo la gara contro il tempo la mattina per arrivare al lavoro, adesso per portare i figli a scuola, per un appuntamento importante e neanche farlo apposta. È in questi casi che si scatenano tutte le situazioni che fanno perdere tempo, a cominciare dai ritardi, i disagi dei mezzi pubblici. Pensiamo ai pendolari su lunghe tratte, ma anche a chi si affida ai mezzi in città. A volte il tempo che trascorriamo e che sentiamo di perdere è davvero tanto, troppo. 800 24 00 24, chiamateci allora se siete pendolari e proviamo a quantificare quanto tempo prezioso i ritardi rubano ad un vostro mese, ad un vostro anno. Noi ne parleremo nella seconda parte della trasmissione, ma anche se non siete pendolari, diteci quali sono le cose che vi sembra vi facciano perdere tempo. Del tempo impiegato, del tempo rubato, del tempo perso, ma anche del tempo per sé, parleremo nel corso della nostra trasmissione e quindi non aspettate tempo. 800 24 00 24. C'è da fare, c'è da fare, c'è sempre qualcosa da fare, da rifare, c'è da fare, c'è da fare. Da fare, c'è sempre qualcosa da fare dentro di noi. C'è da fare andare avanti là. Una cosa è certa, vorremmo sempre avere più tempo di quello che in realtà abbiamo, più tempo da impegnare o più tempo da liberare, ma più tempo perché il nostro tempo è la nostra vita, dato che la vita è fatta del tempo che abbiamo da vivere e dal modo in cui viviamo il tempo dipende la qualità stessa della vita di ciascuno di noi. Sul nostro profilo Facebook abbiamo postato un test che può essere utile a farci capire il rapporto che abbiamo con il tempo. Andiamo sempre così di corsa che rischiamo di non avere tempo di riflettere. In linea con noi oggi ci aiuta a farlo il dottor Michele Cucchi, psichiatra, direttore sanitario del Centro Medico Sant'Agostino di Milano. Buongiorno dottor Cucchi. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, i nostri amici che ci seguono su Facebook hanno già potuto leggere il test che lei ha preparato per noi, ma noi vogliamo riprenderlo per attivare i nostri amici da casa e invitarli a prendersi un po' di tempo per rispondere e arrivare a capire qualcosa di più del rapporto che hanno con questa dimensione della vita. Un esercizio che io credo possa essere utile soprattutto in questi tempi in cui tutti andiamo di corsa. Il tempo per te è una risorsa o un limite? Ti senti padrone del tuo tempo o sei schiavo del tempo? Che cosa ti infastidisce di più, perdere tempo o non avere tempo? Cogli l'attimo o rimandi? Ti crea ansia oziare o dover essere produttivo? Stiamo pubblicando, l'abbiamo pubblicato anche su Facebook, intanto il nostro numero verde è a vostra disposizione per rispondere proprio in diretta alle domande e ottenere dal dottor Cucchi il vostro profilo, oppure se non avete tempo di completarlo, diteci qual è di queste domande quella che vi ha attivato di più. C'è dottor Cucchi, chi utilizza bene il tempo, riesce a fare tante cose, riesce a trovare il tempo per fare sempre di più e fare tutto bene. Come si direbbe, è ben organizzato, pianifica bene la sua vita. E poi c'è chi ha la sensazione di non avere mai abbastanza tempo, arranca sempre in ritardo, rimanda, perde tempo, non conclude. Intanto potrebbe essere utile provare a capire a quale dei due gruppi apparteniamo. Dottor Cucchi, perché questa differenza? Beh, allora innanzitutto direi che non siamo tutti classificabili all'interno di questi due gruppi in maniera netta, ma probabilmente il tempo va considerato come un valore, non solo come un lusso, come un valore che si interseca su quattro elementi principalmente. C'è una predisposizione personale ovviamente a rapportarsi con il tempo, ci sono poi le fasi di vita per cui in vari momenti della vita ci poniamo davanti al tempo in maniera diversa. Pensiamo al giovane che morde il freno e che vuole correre veloce, saltare le tappe, invece magari la persona un po' più attempata che incomincia a pensare in termini di rimpianto. Poi c'è un problema di conoscenze, per cui saper gestire il tempo, non nasciamo imparati, bisogna un po' studiare sull'argomento. E poi c'è il tema della società, di come la società imposta il rapporto col tempo. E oggi la nostra società è una società che vive il senso della rincorsa. Sì, sempre. Sempre. Questo senso di rincorsa lo imponiamo anche ai nostri bambini, questo ritmo accelerato, dottor Cucchi. Allora, il problema con i bambini è che ci dobbiamo sentire, sembra che ci si debba sentire tutti molto bravi, e per essere bravi genitori i bambini li dobbiamo inzeppare di attività da fare. E poi i bambini ovviamente hanno i loro tempi, per cui hanno una concezione che vive nel qui e ora, non pensano che stiamo facendo tardi, per cui a volte si crea il banale conflitto del dai che stiamo in ritardo. E quindi insomma c'è la conflittualità nella gestione del tempo. La caratteristica, lo anticipavamo con Nicoletta Pollamatiò, della nostra società è che ci spinge sempre a fare più cose contemporaneamente. Adesso che tu quante cose fai contemporaneamente, Nicoletta? Tante, ma non lo consiglio, o meglio, io credo che a volte ci siano momenti in cui inevitabilmente facciamo tante cose, il fantomatico multitasking di cui tanto si parla, e si parla in particolare per le donne perché appunto si sovrappongono tanti ruoli, e in questo senso io credo che il tempo sia, come diceva il dottor Cucchi, un valore e anche però un lusso e un privilegio. A volte ci si può concedere il lusso di una pausa, appunto di un rallentamento, proprio perché tutti quanti siamo ormai abituati a fare tante cose contemporaneamente e anche la tecnologia ce lo consente. Allora ogni tanto la classica espressione staccare la spina e prendersi una pausa può essere veramente un regalo che ci facciamo. In questo senso è un bel lusso da godersi tutto intero. In realtà invece facciamo sempre più cose insieme contemporaneamente: guardare e parlare al telefono, dare la pappa e controllare l'agenda, leggere la posta e cucinare la cena. In questo sicuramente la tecnologia ci ha aiutato, forse ci ha costretti. Il risultato è che comunque il nostro cervello, dottor Cucchi, è sovraffaticato, e a farne le spese spesso sono l'attenzione, la memoria, la concentrazione. Andiamo insomma in riserva, perché come insegnavano le nostre nonne e come un po' anticipava Nicoletta Pollamatiò, per fare bene le cose, anche quando sono tante, quando ci sembra di non avere il tempo perché la nostra agenda è affollata, perché dobbiamo correre di qua e di là, per farle bene bisognerebbe farle una alla volta. Ma chi vive in multitasking rischia anche di non vivere bene anche il suo tempo. E dobbiamo dire che il nostro cervello, come sistema neurobiologico, è multitasking, per cui nasce per produrre un'attività multitasking. Certo, bisogna capire oggi se il multitasking è un'opportunità o un vincolo, e peraltro usarlo in maniera poco funzionale, ma subirlo, il multitasking, produce poi una serie di condizioni che passano attraverso lo stress, e poi la conseguenza è una riduzione di alcune funzioni, come appunto la concentrazione, l'attenzione selettiva, si impattisce poi anche sul sonno, per esempio. C'è il problema oggi di quelle che sono le nuove forme di comunicazione, che hanno aperto i rubinetti della conoscenza e della interazione. Bisognerebbe capire se stiamo interagendo o se ci stiamo relazionando. Ma bisognerebbe anche capire, ed è quello che vogliamo fare proprio con i nostri ascoltatori che invitiamo a chiamare il nostro numero verde, se il tempo per loro è una risorsa o un limite, se si sentono padroni del loro tempo e invece sono schiavi del tempo. Abbiamo tempo, a proposito, prima di dare la linea ai mercati, forse, di sentire Michael che ci chiama da Reggio Emilia. Buongiorno. Buongiorno a tutti e a tutti gli ascoltatori. Ci dica. Io vi ho contattato perché, parlando di tempo, io è da qualche anno che sono parte di un progetto che si chiama Time Republic, ed è una piattaforma ovviamente gratuita affinché le persone possano scambiarsi, appunto, come dite voi, la cosa più preziosa che abbiamo, cioè il tempo, facendola diventare moneta sonante. Mi spiego meglio, molto rapidamente. Ognuno di noi ha delle esigenze quotidiane. Sono le banche del tempo. È una piattaforma per le banche del tempo, e quindi chiunque, senza dover necessariamente entrare in una banca del tempo, perché magari o non lo trova o non ne condivide perché in quel luogo fisico non ce l'ha, ha la possibilità, semplicemente iscrivendosi a questa piattaforma presente in 6 paesi del mondo, di potersi relazionare sia col vicino di casa ma anche con qualcuno dall'altra parte del mondo per scambiarsi servizi, favori, consulenze, molto utilizzato anche dalle start-up che hanno bisogno di competenze di alto livello ma che non riescono a trovarle perché sono, come sì, diciamo noi in inglese, short on cash, quindi non hanno i soldi per farlo, e tra l'altro è anche un utile modo per testare le proprie competenze e le proprie professionalità. Il sistema prevede le valutazioni, quindi molto semplicemente io invito chi ci sta ascoltando a verificare il sistema, iscrivendosi, è gratuito, si può testare, e io sono prima di tutto un utente, ma ovviamente mi occupo anche del coordinamento delle piattaforme internazionali in giro per il mondo. Cuore e denari. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Beh, il treno dei desideri forse va all'incontrario, i desideri di chi prende il treno spesso sono desideri infranti, anche perché spesso è di una cosa che ci si accontenterebbe: arrivare in orario, senza contare la pulizia, la comodità, la climatizzazione adeguata al periodo dell'anno. Oggi, nella seconda parte della trasmissione, penseremo al tempo che passiamo e a volte perdiamo per via dei tanti ritardi sui mezzi pubblici. Quindi 800 24 00 24, il nostro numero verde è a disposizione. Raccontateci le vostre esperienze, prenotate le vostre domande, perché insieme torneremo a fare il punto sugli strumenti su cui possiamo fare affidamento come consumatori e come viaggiatori. Cogli la rosa quando è il momento, che il tempo, lo sai, vola. E lo stesso fiore che sboccia oggi, domani appassirà. Grazie mille, Piz. Cogli la rosa quando è il momento. In latino si dice invece carpe diem. Chi lo sa che cosa significa? Carpe diem, cioè cogli l'attimo. Molto bene, signor. Mix. Mix. Mi ricorderò il suo nome. E allora anche voi cogliete l'attimo, 800 24 00 24, pensate al vostro tempo, quanto tempo avete per voi, quanto tempo riuscite a liberare, che cosa vi fa davvero più arrabbiare, qual è il tempo perso che più vi pesa, 800 24 00 24, ci chiama Domenica d'Ancone, poi Armando da Palermo, buongiorno Domenica. Buongiorno, buongiorno carissimi di Radio 24, buongiorno Nicoletta. Buongiorno, grazie per aver chiamato, per aver avuto il tempo di chiamare, di riflettere sul tempo. Allora guarda, io ho tutto il tempo con me, io penso di essere una privilegiata perché gestisco il mio tempo, sono padrona del mio tempo e in questo senso io mi sento ricchissima. Perché dico questo? Perché mentre magari le altre persone giustamente si affannano per correre sempre di più e fare tutto quello che può essere anche utile, ma a volte anche tanto inutile, io magari mi prendo un panino e me lo vado a gustare in quel del Conero che tu conosci bene, certo. Ecco. E questa è la mia vita. Io ho 57 anni, faccio un lavoro rilassantissimo perché sono una modella di Accademia di Belle Arti, quindi lavoro 3 giorni alla settimana, per cui sto più sdraiata che in piedi. Sto più sdraiata che in piedi, mi piace. E per cui io mi sono detta, ma perché correre così? Accontentarsi per gestire il proprio tempo, rilassarsi, farsi un buon caffè al bar, perché no andarsi a fare un caffè a Riccioni ogni tanto, dove vuoi, perché i treni costano anche poco, e quindi non dannarsi dietro l'orologio, perché il tempo che rimane sempre troppo breve nella nostra vita e va colto carpe diem, come dicevate prima, l'attimo. Perché ogni secondo va vissuto. Domenica, questo, il tuo tempo è un vero lusso, Nicoletta. È la lettrice ideale. La lettrice ideale, un nome omen, si chiama Domenica, e direi l'altra cosa bellissima che ha sottolineato è non soltanto che ha tutto il tempo, ma anche che lavora all'Accademia delle Belle Arti e quindi dedica il suo tempo al bello. E davvero è la lettrice ideale di Autospendit, perché noi parliamo di come spendere il tempo per guadagnarlo e come spenderlo in mezzo al bello. Quindi Domenica, spero che troverai il tempo venerdì di andare in edicola e comprare Autospendit e dirmi cosa ne pensa. Armando, buongiorno, ci chiama da Palermo. Armando, buongiorno, buongiorno a lei. Tempo fa anche perché noi abbiamo, Armando, scusi, Pietro Lacorte, che è in regia oggi alla parte tecnica, che è un palermitano doc. Quindi sono io non sono palermitano doc, purtroppo. Ai ai ai ai. Allora, Armando. Sì, si tratta di questo. Tempo fa un mio collega di lavoro americano mi insegnò un detto meraviglioso che mi è servito molto in tutta la mia vita. Diceva questo detto: trova il tempo di adorare la rosa. Cioè, è la sintesi della vostra trasmissione, perché le cose che si fanno contro il tempo ci impedisce di valutare anche le piccole cose belle che ci circondano e di vederle. Se mi date 30 secondi vorrei raccontare brevemente una storiella molto correlata. Va bene. C'era un vecchietto in un giardino pubblico, in uno spiazzale in un giardino pubblico, e guardava intorno a sé le mamme con i bambini che chiacchieravano tra loro, uomini impegnati in conversazioni di fatti loro, e questo vecchietto invece ascoltava il canto degli uccelli. E a un certo punto mise una mano in tasca, ne tirò fuori una manciata di monetine e le gettò sul pavimento di questo spiazzale. Improvvisamente tutti si giravano a guardare dove erano cadute queste monetine. Sì. Questo vecchietto si alzò in piedi e disse: è mezz'ora che ci sono gli uccelli che cantano e nessuno ci ha fatto caso. E appena sono cadute le monetine vi siete girati tutti a guardare. È vero, Armando, è una storiella che racconta una grande saggezza, è vero. Noi spesso andando di corsa ci perdiamo le piccole cose che rendono grande la nostra giornata. Grazie Armando per aver chiamato e per averci raccontato questa storia che è un po' una carezza al cuore. Dottor Cucchi, un bell'insegnamento. È vero, verissimo, verissimo, perché anche noi con i nostri pazienti cerchiamo di dare il consiglio di provare ad ascoltare di più le cose semplici in ogni singolo momento. Quanto tempo impegniamo tutti i giorni nel bere un caffè, in una passeggiata? A volte anche i contrattempi possono rappresentare delle opportunità. Noi non ce lo ricordiamo il caffè che sapore aveva questa mattina, perché viviamo quel tempo sorvolandolo. Da lì partono tutta una serie di fraintendimenti, per cui effettivamente la storiella che ci ha raccontato l'ascoltatore è interessante. Mi piace. Io devo dire che ormai da qualche anno, ogni giorno alla sera, penso nell'arco della giornata qual è stato il momento bello e qual è il momento invece che mi sono lasciata magari scappare. Devo dire che questa analisi alla fine della giornata mi aiuta molto e mi fa capire che ci sono tanti momenti che noi, se non li ripensiamo, li trascuriamo e che ci fanno capire che possiamo essere davvero più felici e che siamo ricchi, che la vita ci offre anche in quelle giornate che sembrano un po' grigie, in cui siamo sopraffatte dal tempo, in cui pensiamo che insomma tutti ce l'abbiano con noi. C'è sempre un momento, un tempo che in qualche modo ci sostiene, ci accarezza, ci restituisce, ci dà la possibilità per essere noi, che è sempre comunque una bella cosa, un'opportunità che spesso sopraffatti dal tempo dimentichiamo e non sfruttiamo. Io credo, Nicoletta, che come tu ben dicevi, che il segreto è proprio ascoltarsi, no? Seguire Posso poi quelli che sono lettrice, i nostri veri desideri. Infatti la frase che è stata un po' il mantra di Autospendit è tempo di avere quello che sei. Io credo che se uno perde di vista quello che è e quello che desidera davvero, il filo rosso, diciamo, di quello che ci piace può essere la guida per prenderci appunto il tempo per assaporare quello di cui in fondo abbiamo bisogno, perché quello che desideriamo è quello di cui abbiamo bisogno. Il problema è che spesso siamo sopraffatti dal tempo, ci sembra di non averne abbastanza, siamo sempre alla rincorsa del tempo e capita che quando riusciamo ad avere un piccolo spazio siamo quasi frastornati, non sappiamo che fare e allora cerchiamo di metterci in contatto con l'amico, apriamo il PC, ci mettiamo, telefoniamo, facciamo qualche cosa, perché il tempo è quel tempo come un terreno messo a maggese, in qualche modo ci costringe a riflettere su di noi, a guardarci un po' dentro. Andiamo a sentire il nostro test, ce lo state richiedendo, e poi andiamo a sentire uno straccio di una bella intervista che tu, Nicoletta, hai fatto a Margaret Mazzantini, che racconta bene il rapporto con il tempo soprattutto di noi donne, credo. Andiamo al test. Il tempo per te è una risorsa o un limite? Ti senti padrone del tuo tempo o sei schiavo del tempo? Che cosa ti infastidisce di più? Perdere tempo o non avere tempo? Cogli l'attimo o rimandi? Ti crea ansia oziare o dover essere produttivo? Dottor Cucchi, ci aiuti un po' a orientarci in questo test? Sì, sono alcune domande che cercano di sollecitare la propria osservazione su se stessi, su come noi ci confrontiamo con il valore tempo. Da un lato dobbiamo fare pace con i nostri valori, per cui a volte le persone si sentono in colpa oggi se non corrono. E corrono anche quando non ce n'è bisogno. No, soprattutto a volte si può correre ma con la testa nel qui e ora, appunto come si diceva prima, bere un caffè e riuscire ad averne la consapevolezza rende la giornata veramente piena in quel modo che ci fa sentire di aver fatto molto, di aver vissuto molto. Invece berlo di corsa, punto e basta, ci renderà la giornata molto vuota, di quelle giornate in cui arriviamo alla fine, abbiamo corso tutto il giorno, siamo esausti, ma ci sembra di non aver fatto nulla. Dall'altro canto, oggi le fonti di informazione, l'essere costantemente online, il multitasking, ci pone il problema della scelta. Cioè, noi riusciamo a mantenere il libero arbitrio nella gestione del tempo o ci facciamo gestire da quelle che chiamiamo urgenze, emergenze? E qui poi c'è l'altro elemento, che è un po' il problema della tecnica, per cui come fare a spuntarla nei confronti delle mille cose che possono succedere in ogni momento in una banale giornata di settembre? E quindi bisogna organizzarsi. Bisogna organizzarsi, questa è la parola magica, ma bisogna organizzare anche del tempo per se stessi. Cuore e denari. Io ho una grande famiglia e una vita ricca e complicata affettivamente. 4 figli, un marito e un carattere che mi obbliga a farmi carico di tutto. Non riesco a delegare. Cucino io, accompagno io il piccolo a scuola, do retta a tutti e tutti mi si aggrappano. Non smetto mai di preoccuparmi. Il mio tempo è follemente pieno e arrivo alla sera tramortita. Ma la vita creativa è un gran risarcimento. Credo che nessuno di noi sia mai davvero soddisfatto di quel che è e quel che fa. Navighiamo in acque basse, afflitti da urgenze mediocri, corriamo e affannosamente cerchiamo di mettere insieme un'esistenza alla bella e meglio come possiamo. L'hai riconosciuta, è la tua intervista a Margaret Mazzantini. Margaret Mazzantini, che intanto mi ha regalato tanto del suo tempo affollato, ha trovato una pausa da dedicare appunto a How to Spend It, proprio per riflettere il come fare, come il fare a prendere più tempo. E questo stralcio dà il problema, no? Questo affannoso dividersi in tanti impegni, ma poi Margaret suggerisce anche una soluzione, che è un po' quella che sta emergendo in questa trasmissione, che è quella di aderire a quello che si fa e anche quello di essere ben consapevoli di quello che ci piace e quindi selezionare bene e cercare di fare, di dedicarsi solo a quello che ci piace. E mi piaceva molto che fosse lei sul primo numero di How to Spend It, perché appunto è una donna molto impegnata, che ha tante cose da fare, ma che ritiene appunto il tempo prezioso. E mi piaceva fosse lei anche perché How to Spend It è un giornale non soltanto teorico e contemplativo, ma c'è appunto una dimensione del fare, no? Diamo dei sogni, ma diamo anche il come fare a realizzarli. In quel come c'è tutto. Io mi sono riconosciuta quando nella frase non riesco a delegare, ed è un dottor Cucchi, un problema comune. Io ho tante amiche che con me non riescono a delegare, mi sembra che invece voi uomini riusciate a farlo di più, con maggiore naturalezza. Ma non so, certo c'è un fatto, il problema della delega pone l'argomento della responsabilità, cioè spesso le donne vedono il delegare come un gesto di irresponsabilità di irresponsabile fragilità. Non lo faccio io è perché non ci riesco. Per cui cerco di io fare penso tutto. Invece che sia da parte mia una forse una forma di ansia per tenere tutto sotto controllo. Esatto. Faccio tutto così tengo tutto sotto controllo, non mi sfugge niente. Se ma delego se mi devo. Ma sì. Se invece di delega, scusami, ti ho interrotto, ma se invece di delega provassimo a pensare a condivisione, forse questo ci aiuterebbe un po'. No, certo, ma io mi prendevo spunto dall'intervista della Mazzantini in cui lei racconta non riesco a delegare ed è un problema molto diffuso, no? Secondo me è anche un po' ansia, dottor Cucchi. Beh, è vero, nel senso che mi sono fatta l'autodiagnosi, vede? Diciamo che il fatto di gestire da soli una cosa può dare la sensazione di averla completamente sotto controllo. Anche delegare è una cosa che si impara e che bisogna costruire. La delega è un atto molto responsabile, non è un evitamento, ed è una delega che va appunto nella direzione della condivisione, perché se vogliamo che la cosa che chiediamo di fare a un'altra persona venga fatta esattamente come la vorremmo fatta, dobbiamo passare i valori, la motivazione. Sì, meglio che ce la facciamo noi, dottor Cucchi. Poi, dopodiché c'è chi taglia corto e dice questo. Faccio io, dai che faccio io. Tieni il tempo, le gambe come le mani, tieni il tempo, non fermarti fino a domani. E c'è un tempo che non arriva mai, troppo difficile da ritagliare, da programmare, sempre troppo poco al punto che pensiamo che non valga la pena impegnarlo. Non ho tempo di andare in palestra, non ho tempo per correre, non ho tempo per camminare, non ho tempo. Chissà quante volte l'abbiamo detto. Buongiorno al dottor Massimo Gualersi, che ha trovato il tempo oggi di essere qua con noi, cardiologo della Fondazione Dognocchi di Parma e all'Università di Parma, esperto di prevenzione e riabilitazione cardiometabolica. Benvenuto. Buongiorno, buongiorno, grazie. Dottore, oggi con lei vogliamo dimostrare che la scusa del tempo non regge, che investire un po' di tempo della nostra giornata facendo un po' di attività fisica rende molto, lo abbiamo detto più volte, che l'esercizio fisico ha spesso un'efficacia maggiore delle medicine, quindi qualche passo in più, qualche piccola in meno, taglio corto, è corretto? È correttissimo, ma prima di dare le scorciatoie che ci sono in effetti, dovremmo prima richiamare tutti a trovarlo questo tempo, anche perché spesso quando non abbiamo tempo è legato al fatto che ci diciamo, troviamo delle scuse non vere, e quando veramente una cosa ci interessa e quando per una cosa abbiamo un reale scopo, allora troviamo tempo in modo inaspettato. Quindi il primo esercizio direi da fare, ancora prima di mettersi le scarpette, è quello diciamo di fare un esercizio mentale e di trovare lo scopo, perché mai dovremmo muoverci, qual è veramente lo scopo che abbiamo. Se troviamo un giusto scopo per fare questo, allora il problema del tempo sarà diciamo risolto e troveremo anche quei 5-10 minuti appunto con la nostra scorciatoia per fare qualcosa di utile. Sì, lei nel frattempo ha un minuto per dirci che cosa possiamo fare, quali scorciatoie possiamo percorrere per muoverci con poco tempo. Beh, innanzitutto la ricerca, proprio perché segue i tempi, si è molto dibattuta, studiato come dedicare, come rendere proficui anche pochi minuti per avere dei benefici. Allora, ad esempio, ci sono molti studi che ci dicono che semplicemente percorrendo 50 gradini al giorno, quindi facendo le scale, un paio di scale a piedi, due o tre volte al giorno, ecco, questo possono portare un beneficio enorme dal punto di vista della muscolatura, del rinforzamento e anche dell'efficienza delle arterie e delle vene negli arti inferiori. Però il trucchetto per fare in modo che anche questi pochi gradini, quindi questi 5 minuti dedicati al giorno per percorrere le scale, sia efficace, è che dobbiamo farli in modo lento, con calma, quindi salire un gradino alla volta, appoggiando tutto il piede nella pedata appunto della scala, e salirle molto lentamente, quindi non facendole di fretta. Se saliamo le scale lentamente, anche 50 gradini al giorno possono portare un beneficio maggiore al consumo di 350 calorie, quindi maggiore a quello che abbiamo camminando ad esempio mezz'ora piano. Quindi fare le scale potrebbe essere già un buon rimedio. E noi le faremo, dottor Gualersi, altri consigli del dottor Gualersi le mettiamo sulla nostra pagina Facebook. Grazie al dottor Gualersi e al dottor Cucchi, il nostro test è a vostra disposizione, compilatelo e il dottor Cucchi vi risponderà. Nicoletta Pollamatteo, in bocca al lupo. Grazie e grazie agli ascoltatori. Cuore e denari. Non è tempo per noi. che non ci svegliamo mai. Abbiamo sogni però troppo grandi e belli, sai. Belli o brutti abbiamo facce. Siamo ritornati insieme a Cuore Denari in una puntata dedicata al nostro rapporto con il tempo e alla sua gestione. Sembra assurdo, ma una cosa che dovrebbe essere normale, trascorrere tempo in famiglia, con i figli, per crescerli, stare con loro, sembra diventato un privilegio di chi può staccare prima dal lavoro. Gli altri, invece, sono in tanti quelli che fanno la gavetta ed ambiscono anche ad una posizione più stabile e devono lavorare fino a tardi per magari pagare la babysitter che nel frattempo intrattiene i figli a caso al parchetto. Vi riconoscete anche voi? 800 24 00 24. Molti di voi ci stanno chiedendo di riproporre il test. L'abbiamo messo sulla nostra pagina di Facebook. È stato elaborato dal dottor Cucchi, che è in linea con noi. Dottor Cucchi? Nel caso potremmo rispondere anche agli ascoltatori che ci seguono via Facebook, ma intanto abbiamo in attesa alcuni ascoltatori e dato che il tempo è prezioso non vogliamo farli attendere più a lungo. Abbiamo Marcella dalla provincia di Milano, Morris da Treviso e Vincenzo dalla provincia di Salerno. Marcella, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno e benvenuta e grazie. Grazie a lei. Ci dica. Ecco, io volevo proporre due riflessioni, sì, brevemente. La prima è che abbiamo tanti impegni, molti di noi sono appunto inghiottiti, perseguitati tutto il giorno da cose da fare. Bisognerebbe forse magari tutti i giorni possibilmente chiederci se abbiamo scelto quelle attività, e se le abbiamo scelte evidentemente è perché pensiamo ci portino soddisfazione. Certo. E se non le abbiamo scelte dobbiamo rivedere qualcosa. È vero. Siamo evidentemente vittime di attività alienanti che profondamente non abbiamo forse scelto. Marcella, dobbiamo imparare a dire di no, a dare delle priorità. Assolutamente. E poi volevo anche così parlare un po' di una mia scelta recente. Ho deciso di mantenere uno spirito un po' contemplativo sempre, in modo tale che durante lo svolgimento dei miei compiti, io per esempio lavoro a distanza e passo molto tempo in auto, sì, e questa cosa è pesante. Oggi sono stata costretta a recarmi a Milano, una cosa improvvisa, mi sono imbottigliata in un traffico veramente che non mi ricordavo, però ho apprezzato il fatto di vedere dei palazzi nuovi che non avevo mai visto. Eh sì, e quindi ha fatto, come si dice, Marcella, di necessità virtù. Ebbene, è un bel esercizio. Lei è arrivata a Milano in auto, noi invece tra poco parleremo di chi perde un sacco di tempo sui mezzi pubblici, pendolari, treni. Se quello è un tempo perso, ma come insegna Marcella, potrebbe essere un tempo che noi approfittiamo, di cui noi approfittiamo per magari guardarci intorno, per riflettere un po'. Grazie a Marcella, andiamo a Vincenzo dalla provincia di Salerno. Sì, buongiorno. Buongiorno, sta buongiorno. Bene? Sì. Sì, grazie. Oh, questo mi piace. Anche noi, ce la caviamo. Mi dica, Vincenzo. Senta, una annotazione e poi un breve racconto di una scenetta proprio recentissima che in parte sembrerebbe contraddire quello che io sto per dire. Sì. E in effetti la mia annotazione riguarda l'importanza della genitorialità, sì, nel tentativo di vivere la giusta dimensione, quella qualitativa del tempo in cui noi quotidianamente, consciamente ma anche inconsciamente ci avventuriamo. Sì. Io ho sentito il parere degli esperti, anche di quella radioascoltatrice che ha la fortuna di poter vivere la giusta dimensione quotidianamente del tempo. In realtà sono considerazioni molto semplici che tutti noi facciamo quotidianamente anche nei discorsi tra amici, però purtroppo offrono il destro alla oggettiva impossibilità di metterle in pratica in una società poco attenta al benessere psicofisico delle persone. Basti, sì, pensare alla sanità, basti pensare alla scarsa tutela anche della maternità. Vincenzo, mi dispiace metterle fretta, ma venga al dunque, perché poi noi andiamo a parlare del tempo perso dei pendolari e quindi invitiamo già i nostri amici a mettersi in contatto con noi. Vincenzo, quindi concludendo... E la genitorialità, questo obbligo piacevole di accudire i figli, ci consente di confrontarci con questa dimensione fondamentalista dei bambini e che ci fa riscoprire appunto l'importanza del tempo. E anche quando noi cerchiamo di correggerli in determinati, sì, atteggiamenti che a noi sembrano maleducazione, insofferenza o anche superficialità, in realtà invece... sono loro che si stanno consentendo di praticare questa terapia. empatia fondamentale. La bellissima notazione divertente è che mio figlio, che era in macchina con me, al quale io avrei voluto far ascoltare la mia voce, ha deciso di abbandonarmi perché non gli interessava e non aveva tempo di ascoltare quello che mi Vincenzo, grazie per essere stato con noi. Dottor Cucchi, ci salutiamo, ha sentito i contributi dei nostri ascoltatori, possiamo contare sulle sue risposte sui profili della nostra pagina Facebook per il test? Perfetto. Allora, grazie dottor Cucchi, e noi buona giornata. Affrontiamo la seconda parte della nostra trasmissione. In linea con noi abbiamo il piacere di avere Furio Truzzi, presidente di Assoutenti. Buongiorno. Eccoci, buongiorno a voi, anche se qui piove. Dove? Siamo a Roma. È a Roma, vede? Invece noi oggi a Milano un magnifico tempo, a proposito di tempo. Dottor Truzzi, a volte ad aspettare siamo costretti da ritardi, inefficienze, guasti, arriviamo a perdere appuntamenti importanti, ritardare il lavoro a scuola e la vita, no, di molti pendolari. Oggi lei ci aiuterà a fare il punto, ma prima voglio raccontarle questa storia, prima di sentire quella dei nostri ascoltatori che invitiamo ad intervenire per raccontarci quanto tempo perdono sui mezzi pubblici, sugli autobus, anche in treno. A Forlì un ragazzo che frequenta una scuola superiore ha sottoscritto un abbonamento annuale ai mezzi che dovrebbe arrivare alle 7.55 e gli permette di arrivare alle 7.55 di fronte a scuola. In realtà arriva 7 minuti dopo e il ragazzo, così come tanti altri, è costretto perennemente ad entrare in classe a lezioni già iniziate, quindi suo papà ha dovuto scrivere una lettera di protesta. Noi genitori, scrive, abbiamo dovuto sottoscrivere un'apposita dichiarazione di entrata in ritardo continuativo. Nel mio caso specifico preferisco, dice il genitore, portarli in orario in auto, ma ciò a causa sicuramente di un grave disservizio e pagando un abbonamento non usufruibile. Allora, chissà quanti di voi vivono queste situazioni, ma noi proveremo naturalmente a darvi qualche soluzione, ci proverà il nostro esperto, il dottor Truzzi. Dottore, voi vi occupate nello specifico di trasporti, no? E quindi come risponderebbe a questo papà, così giustamente, secondo me, arrabbiato di dover pagare, no? Al punto da pagare un abbonamento e poi dover andare in macchina ad accompagnare il figlio? Innanzitutto che ha tutta la mia solidarietà, e questo significa chiedere una sorta di applicazione di carta dei servizi che evidentemente a Forlì non c'è, oltre che risolvere il problema alla base, perché il primo punto è far arrivare il bambino in orario e quindi quello che noi riscontriamo è purtroppo sono orari fatti in maniera vecchia che non soddisfano le esigenze dell'utenza. Se ciò, come dire, fossimo in un paese normale, una volta avvenuto e c'è il ritardo, al ritardo c'è la penalty, però un paese normale in parte lo siamo perché abbiamo dal settembre 2013 un accordo in conferenza unificata con i comuni, le regioni e lo Stato che prevederebbe che tutti i servizi pubblici si dotino di carte dei servizi, le quali devono prevedere anche forme di rimborso a chi viene danneggiato dalle inadempienze, quindi le frequenze e gli orari sono una parte fondamentale, un diritto che va tutelato e quindi siamo a fianco di quel genitore e se ha bisogno di far valere le sue ragioni ci proviamo insieme per fargliela avere di più. E quindi 800 24 00 24, se siete stati danneggiati dalle inadempienze, se perdete tempo sull'autobus, se perdete tempo andando sul treno locale, chiamateci perché insieme al dottor Truzzi vi diremo che cosa si può fare. Ma dottor Truzzi, quali sono le zone più critiche in Italia? Noi qui in Lombardia conosciamo bene Trenord, facciamo un po' una mappa delle zone un pochino più a rischio, calde. Sì, direi che per quanto attiene la mobilità ferroviaria i problemi più grossi li riscontriamo nei concentramenti metropolitani, sia per un problema infrastrutturale per cui dove servono 4 binari magari ce n'è 2, sia per un problema di materiale rotabile, i cosiddetti locomotori, i vagoni che spesso non sono funzionanti, forse che si chiudono male, per cui voi conoscete bene Trenord, ma tutti i pendolari d'Italia conoscono le linee Roma-Nettuno, piuttosto che addirittura interregionali come Caserta-Roma, addirittura ritornando da voi Piacenza-Milano o da noi Genova Milano. Ecco, diciamo che purtroppo la criticità permane alta, tant'è che quasi tutti i contratti di servizio regionali prevedono delle penali per Trenitalia quando non rispetta in genere la soglia di parametro del 95% questi tempi. E quindi non siete soli nelle la macchia di leopardo è quasi una pantera nera nel nostro paese. Senta, dottor Truzzi, dai treni passiamo alla città. Pensiamo a una grande città. Se la metropolitana rallenta le corse, noi ce la possiamo prendere con qualcuno o dobbiamo solamente così stringere? Proprio di sì, se quella città è una città civile, come in alcuni casi c'è, Torino, Genova, Milano, prevedono forme di rimborso esplicito. Torno a dire, ormai tutti i servizi pubblici, in particolare quelli di trasporto, hanno una carta che definisce i tempi e gli standard. Se uno è in metropolitana e gli è promessa una frequenza ogni 3 minuti e la soglia si alza, chiaramente può protestare. Dopodiché ci rendiamo tutti conto che se da 3 diventano 6 minuti, per quanto il delta si sia raddoppiato, come dire, il disagio è contenuto. Il disagio incomincia a farsi sentire quando dai 6 minuti si passa ai quarti d'ora, alle mezz'ora, e quindi arriviamo poi per analogia ai treni, dove purtroppo la normativa europea il ritardo viene punito quando supera l'ora, mentre invece riusciamo ad applicare nelle normative regionali soglie ben più basse. Ma nella pratica noi ci lamentiamo, e che cosa possiamo fare? Naturalmente con buon senso, lei sottolineava la metropolitana, se sono 4 minuti di ritardo, 6 minuti di ritardo, si può protestare, ma non più di tanto. Ma concretamente? Concretamente noi possiamo fare quello che abbiamo già fatto, e cioè chiedere alle regioni di prevedere forme automatiche di rimborso. E devo dire, se con Trenord non funzionano gli orari, però funzionano i rimborsi, perché la Lombardia è pressoché una regione pilota insieme alla Toscana, al Piemonte e al Veneto, dove per i pendolari, quando si subisce ritardo, parlo dei treni regionali ovviamente, c'è un rimborso automatico. Sì. Mentre nelle altre regioni tutto ciò è soggetto a un'estenuante contrattazione, a volte il rimborso non c'è. Quindi che cosa si può fare? A volte si tenta dal giudice di pace con effetti controversi, perché ci sono giudici che danno ragione, altri che no, e quindi quello che si può fare è obbligare che in tutte le regioni ci sia un sistema di rimborso automatico sui treni di pendolari, e già che ci siamo anche su quelli a lunga percorrenza, perché non va assolutamente bene che il pendolare che prende un intercity, quindi a contratto statale non regionale, si debba aspettare i 20 giorni per presentare la domanda di rimborso se il treno supera l'ora di ritardo. Ecco, quindi quello che si può fare immediatamente è questo, salvo poi se qualcuno è danneggiato profondamente, perché il ritardo non capita 2 o 3 volte al mese, ma lo subisce pesantemente, allora lì si può studiare anche una causa legale, perché il furto di tempo è veramente tanto. Il furto di tempo l'ha chiamato il nostro Furio Truzzi. Abbiamo in linea con noi Sante, che ci chiama da Catania all'800 24 00 24. Vediamo dove perde tempo. Buongiorno Sante. Io non perdo tempo, è mia figlia che spesso e volentieri la mattina non riesce a prendere l'autobus perché l'autobus non parte, cioè non arriva. E idem al ritorno, esce da scuola, dovrebbe prendere l'autobus delle 14, ma l'autobus non passa. Quindi mi chiama: papà, dove sei? E io in questo momento mi trovo a Siracusa, e come faccio? Spera nell'altro, nel successivo, alle 3:30. Quello di successivo è pieno di ragazzi, di pendolari. Certo. E purtroppo non si riesce a risolvere il problema. È decennale, quando andavo io a scuola era la stessa cosa. L'azienda siciliana trasporti purtroppo non riesce a risolvere questo problema. Non so per quale motivo, a volte hanno problemi col carburante, con insomma sono tante e l'autobus non passa. Dottor Truzzi, quale consiglio possiamo dare a Sante? Ad esempio, perché so che ci sono dei pendolari che si uniscono in comitati locali, anche grazie al web, e fanno una sorta di mobilitazione. Potrebbe essere utile nel caso di Sante? Ma io direi assolutamente sì. Diciamo che il male peggiore è la rassegnazione, ecco, e quindi aspettare l'autobus che non c'è, il tranchiamato desiderio, aspettare Godot. Ecco, io consiglio assolutamente, di fronte a problemi come quelli denunciati dall'ascoltatore di Catania, di cercare di unirsi, di sollecitare, di premere, di non scoraggiarsi, di affiancarsi alle associazioni. Sì, ci si scoraggia, dottor Truzzi, perché già si perde tempo sugli autobus, in treno, e poi bisogna impiegare altrettanto tempo per... E lo so, diciamo che il problema è che se siamo acquiescenti, rassegnati, come dire, non riusciremo mai, anche se dovremmo in un paese normale non doverci preoccupare dell'autobus che non arriva, perché così dovrebbe essere, e quindi io non vedo molte alternative all'impegno civico, e quindi purtroppo dedicare dell'altro tempo, come lei dice, per poter difendere il proprio diritto. Cosa possiamo dire all'ascoltatore di Catania? Che sì, l'autobus non arriva, se fosse in Svizzera riceverebbe il bonus a casa di rimborso. Ecco, però... ma ad esempio, mi scusi, se la ragazza ha fatto un abbonamento, il ritardo è continuativo, non può avere almeno il rimborso dell'abbonamento? Ma è proprio lì che volevo arrivare, cioè a dire che il punto minimo è quello di chiedere, in questo caso, a chi gestisce il servizio per catanese, che poi dipenderà dalla regione siciliana, che è firmataria di questo accordo, di prevedere il rimborso dell'abbonamento. Ora, io cito un episodio limite, ma che per me è un grande passo avanti, che dà coraggio anche al signore di Catania. A Genova, quando ci sono stati quei 5 giorni di scioperi selvaggi che hanno praticamente paralizzato la città, siamo poi riusciti a dare agli abbonati annuali, mensili e settimanali un rimborso consistente, perché agli abbonati annuali hanno avuto addirittura un mese in più per poter viaggiare gratis per i disagi patiti in 5 giorni. Quindi, come dire, l'unione fa la forza, non dobbiamo rassegnarci. E voi non rassegnatevi, scrivete se avete dei problemi. Cuore Denari è sempre aperto, grazie all'aiuto dei suoi esperti, grazie al dottor Truzzi, a Marco Lombardo, a Pietro Lacorte in regia alla parte tecnica. Noi ci troviamo ancora domani, non c'è ancora Deborah, ma lunedì ritorna di nuovo la coppia di Cuore Denari a partire da lunedì. Cuore e Denari.